Volevo dirvi che siete una delle poche cose rimaste della vecchia vita e quindi devo dire che mi date un senso di abitudine di quello che avevo prima del coronavirus. Grazie. Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Con 2 grammi, 1000 lire semplici, venite versato in banca, o meglio ancora, nella grande banca d'oro di credito, risparmio e sicurezza. Buongiorno Deborah, come stai? Buongiorno, bene, bene, presidiando la tecnologia che speriamo non mi abbandoni come mi ha fatto ieri mattina, ma vediamo. Ma fai capricci oggi. Di tanto in tanto più delle borse, diciamo così, che oggi invece esatto. non sono capricciose oggi, vedo ma bene. Ma non vorrei che la mia tecnologia andasse proprio dietro ai mercati, ieri è stata una bruttissima giornata, di conseguenza il mio collegamento wifi non ne voleva sapere, oggi invece funziona tutto diversamente, speriamo, incrocio le dita, e adesso la trasmissione è ancora lunga, quindi vediamo. Non ma diciamo nulla. Abbiamo aperto con Mary Poppins. No, abbiamo aperto con Mary Poppins per un doppio motivo. Primo, perché si parla di 2 penny e noi siamo 2 di denari, quindi già c'era un motivo più che sufficiente per scegliere questa cosa qui. Poi, sì, quando Sebastiano Barisone ci chiederà di fare un restyling al programma, potremmo partire dal titolo, ci potremmo chiamare 2 penny. Due penny, sì, è un'indicazione che può essere utile anche per un'eventuale vendita del nostro programma, chissà, nel Regno Unito o altrove, insomma. Ecco, ma al di là delle questioni dell'esportazione, volevo dirti, abbiamo cominciato così per tanti motivi, tra cui il fatto che abbiamo pescato da Mary Poppins, perché vogliamo darvi una notizia molto graziosa, che è quella di una bambina, Martina si chiama, che ha mandato una lettera dicendo: ciao a tutte le dottoresse e tutti i dottori, spero che stiate bene, io sono molto preoccupata per voi e soprattutto per gli ammalati che hanno il coronavirus, state tranquilli, io vi proteggo, spero che nessuno di voi abbia questo virus, comunque io rispetto le regole, vi mando tanti baci e abbracci. E poi apre una parentesi Martina e scrive: ho un pensiero dalla mia Musina. Abbiamo chiesto qui ai veneti della redazione, tra cui anche l'ottima Laura Faggin, che mi guarda dal di là del vetro insieme a Peter Bescapè quest'oggi in regia. Abbiamo chiesto, dicevo, ai nostri colleghi dal Veneto, ci hanno detto sì, vuol dire il salvadanaio. Allora, dal salvadanaio Martina ha inviato 10 euro e 20 centesimi per il conto corrente dedicato all'azienda sanitaria Dolomiti per l'emergenza Covid. E allora l'azienda sanitaria che l'ha fatto sapere, la ULSS Dolomiti, ringrazia Martina per la generosità e la sensibilità dimostrata con creatività e un messaggio molto forte che ha commosso, scrive l'azienda sanitaria. E allora questo era, mi sembrava un ottimo motivo, anzi tanti ottimi motivi, per cominciare con la canzone 2 penny. Che ne dici? Sì, hai fatto benissimo, condivido la scelta che è stata fatta dalla nostra redazione, peraltro ci dà anche l'opportunità di ricordare che di Martine, di bambini, ma anche di persone un po' più grandi che in questo momento con poco stanno aiutando magari delle persone vicine che sono in difficoltà, ce ne sono tante, quindi a prescindere da tutte le iniziative di sistema che si stanno mettendo in campo per sostenere le famiglie, le imprese piccole e grandi, ci sono anche poi delle iniziative individuali, spontanee, di prossimità, che ovviamente provano ad alleggerire questo momento che per qualche famiglia è veramente drammatico. Noi lo sappiamo bene perché ci arrivano tante richieste a 2 di denari, a cui proviamo a dare una risposta. Tante richieste che arrivano anche da molte persone, piccole aziende, che, caro Mauro, ci stanno chiedendo: ma come funziona questo finanziamento che ha questa garanzia pubblica che presto potrebbe essere erogato dal sistema bancario? Allora, da 3 giorni sono pubblicati online i moduli per ottenere le famose garanzie statali per finanziare appunto le imprese che hanno dovuto abbassare la serranda nelle ultime settimane. Ma a parte qualche così difficoltà e resistenza che qualche banca fa e dice: non abbiamo le istruzioni, non abbiamo i moduli, non abbiamo i decreti attuativi, non serve alcunché di tutto questo, perché la modulistica è bella che pronta. E addirittura, come racconta anche il Sole 24 Ore questa mattina, molti istituti di credito attivissimi si dicono pronti ad erogare già dalla prossima settimana. Noi però faremo anche così una piccola perlustrazione su alternative di finanziamento che si sono attivate adesso e anzi hanno intensificato la loro attività, perché è molto attivo, Mauro, il canale del cosiddetto digital lending. E noi stamattina spiegheremo di che cosa vorrebbe dire prestito digitale, una cosa così. Esattamente, ci sono delle piattaforme, delle startup fintech, mi tocca utilizzare questi termini. Accidenti. Ma ormai credo che gli addetti ai lavori sappiano bene di che cosa stiamo parlando. Sono delle piattaforme che consentono di chiedere dei prestiti e soprattutto hanno la possibilità di erogarli molto facilmente. Ci sono alcune piattaforme che hanno visto letteralmente esplodere la loro attività nelle ultime settimane. Allora noi oggi faremo un po' un paragone, no? Ma se io chiedo 25.000 euro ad una banca o li chiedo a questa startup, quali sono le differenti istruttorie che devo rispettare? Ci sono delle modalità diverse di erogazione, requisiti diversi che devo avere, quindi ci interessava un po' capire, insomma, tutto il panorama del credito, come funziona in questo momento delicatissimo, visto che questo è un canale soprattutto per le piccole imprese che ci ascoltano. Nella seconda parte, nella seconda parte del programma invece, cioè dopo l'aggiornamento dei mercati finanziari, più o meno, ci concentreremo, faremo un ripassino, per dir così, delle normative sugli spostamenti, perché sai, Deborah, tutto questo parlare di fase 2 non deve farci abbassare la guardia. In questo momento ci sono ancora tutte le misure di contenimento in vigore, e allora abbiamo di nuovo scomodato l'amico Valerio Vallefuoco, l'avvocato Vallefuoco, che ci fa così un utile ripasso, anche perché incombe il fine settimana e non vorremmo che corrispondesse a qualche allentamento della attenzione. Nicoletta Carbone, nella mezz'ora che precede il nostro programma, sempre lo ricorda con i suoi specialisti, i suoi medici, i suoi esperti. Anche noi nel nostro piccolo invece lo prendiamo dalla parte, diciamo così, della legalità e delle norme in vigore. Quindi i numeri di telefono, se volete dirci cose, segnalarci, anche solo così tenerci compagnia, perché no, 800 24 00 24 per intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri sms e whatsapp. Parliamo di finanziamenti alle imprese e parleremo poi nella seconda parte di spostamenti e limiti, misure di contenimento o, se vi piace proprio l'inglese, lockdown. Ma prima di tutto questo, un po' di giornale radio del risparmio. Meazza corro sciani la mattina, in sordi sola meglio medicina. E allora, Mauro, parto io? Vai tu, perché qua, diciamo, vado. È tutto investimenti, risparmi, è sì. L'arte tua, prego. Allora, lo avevamo preannunciato ed eccolo che pronto arriva, il nuovo BTP Italia, ma la nuova emissione non è imminente, partirà il 18 maggio. Allora, tutti i dettagli sono stati dati ieri da un comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, questa mattina sono riportati anche dalle Sole 24 Ore. Il nuovo BTP Italia, intanto, contrariamente alle anticipazioni che avevamo avuto modo di dare ai nostri ascoltatori, che avevamo noi, il titolo di Stato sarà indicizzato al tasso di inflazione, ma questo, Mauro, forse è anche abbastanza naturale aspettarcelo, perché forse con questa crisi qualche aumento di prezzo da qualche parte lo vedremo. Allora magari c'è qualche preoccupazione su un indice dei prezzi al consumo che potrebbe un pochino indebolirsi prossimamente. Comunque, è proprio così, Deborah. Guarda, ti invito per favore a ricollegarti, perché abbiamo dei problemi, mi segnalano dalla regia, però appunto questa precisazione sull'inflazione è importante, perché abbiamo visto anche riportata dai giornali, segnalata anche qui alla radio, che ci sono state delle tensioni sui prezzi, per dir così, una formula elegante per dire degli aumenti, ad esempio per quanto riguarda i generi alimentari, taluni generi alimentari. E questo è quindi il motivo che ha portato a così prevedere un BTP Italia che arriverà però soltanto da maggio, come dicevamo, dal 18 di maggio, con l'indicizzazione abituale all'inflazione, cioè sarà legato all'andamento dell'inflazione. Dico bene, Deborah? Sì, esatto, adesso speriamo di poter continuare serenamente a parlare. Allora, tra l'altro in molti si chiedono, vabbè, ma allora perché lo annunciano adesso se non arriva prima di un mese questa emissione? Beh, sicuramente c'è da preparare anche in termini di comunicazione i possibili risparmiatori e i possibili sottoscrittori di questa di questo prodotto, perché le banche, ovviamente lavorando in smart working e dovendo gestire tanti altri problemi, in questo momento si dovranno preparare anche ad accogliere questa operazione, per cui servono dei tempi un pochino più lunghi. Ci sarà da capire anche quale sarà l'ammontare previsto, anche se appunto il Tesoro dice che accontenterà tutti i risparmiatori che vorranno fare richiesta. Non ci sarà un'eventuale chiusura anticipata dell'operazione nella seconda o nella terza giornata, ma per 3 giornate intere, lunedì 18, martedì 19, mercoledì 20 maggio, si accoglieranno tutte le richieste che arriveranno dai risparmiatori retail, e poi il giorno 21 maggio ci sarà come sempre una quarta giornata riservata agli investitori istituzionali, per cui un po' le problematiche, le tematiche sono di carattere tecnico, ma in ogni caso noi nelle prossime giornate avremo sicuramente modo di darvi qualche dettaglio in più proprio direttamente con i funzionari del Ministero dell'Economia. E invece ci ha segnalato l'INPS che si è adeguata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del Venerdì Santo, lo chiamo così perché mi sembra più familiare che non dire del 10 aprile 2020. Ma che cosa ha detto, tra le altre cose? Questo DPCM ha previsto una ulteriore proroga per la sospensione dei servizi per l'infanzia, le attività didattiche, le scuole, eccetera, eccetera. E allora l'INPS si è adeguata prorogando fino al 3 di maggio, che è la data fissata dal DPCM appunto varato il giorno del Venerdì Santo, ha prorogato fino al 3 maggio i termini per utilizzare i 15 giorni di congedo per la cura dei figli. L'INPS ricorda che il congedo può essere fruito da uno dei genitori o da entrambi, ma non negli stessi giorni, sempre nel limite complessivo dei 15 giorni per ogni nucleo familiare. Manco a dirlo, ovviamente, maggiori istruzioni sul sito INPS www.inps.it. Gli affitti, Deborah, sono sempre nei nostri pensieri, vero? Anche Confedilizia ci stava pensando, giusto? Esatto, allora in questa fase di grande difficoltà per tutti c'è un'esigenza e c'è questa appunto comunicazione, questo richiamo che Confedilizia ha fatto nelle ultime ore, che vi è un'esigenza appunto che il governo e il Parlamento dovrebbero considerare, quella di salvaguardare le imprese e le famiglie che svolgono la funzione economica e sociale dell'affitto. Giorgio Spaziani Testa, che è il presidente di questa organizzazione, ha richiamato di nuovo l'attenzione relativa alla possibilità di sospendere appunto l'erogazione dei canoni di locazione per uso diverso, commerciale, terziario e produttivo, perché per molti versi appunto questi ambiti sono rimasti fuori, sono rimasti esclusi da tutti i provvedimenti delle ultime settimane, in particolar modo appunto la sospensione dei canoni di affitto per quello che riguarda le famiglie. Ma c'è un'altra notizia importante, Mauro, che dobbiamo dare, che è invece quella della possibile moratoria per il credito al consumo, perché anche questa è una grande richiesta che ci arriva dagli ascoltatori, che ci chiedono: ma sì, bene che ci venga sospeso il mutuo, ma io ho anche tanti prestiti in corso e non riesco in questo momento a sostenerli. Anche questo mondo era rimasto totalmente escluso dai provvedimenti delle ultime settimane, ma l'organizzazione di categoria potrebbe spontaneamente intervenire per consentire una sorta di moratoria, giusto? È così, perché infatti Assofin ha diffuso una circolare indicando alle sue associate che per i titolari di contratti di credito ai consumatori è possibile chiedere la sospensione del pagamento delle rate di finanziamenti di importo superiore ai 1000 euro. Bisogna contattare, ne avevamo parlato in una puntata di Due Denari recentemente, bisogna contattare l'istituto al quale ci si è rivolti per ottenere il prestito. Esiste da ieri questa indicazione complessiva appunto per tutte le associate per invitare a una sospensione che deve venire in aiuto appunto di coloro che in questo momento non sono in grado di sostenere tutte le rate di cui si sono fatti carico in questa fase. Maggiori istruzioni sul sito. Ringraziamo Adiconsum per averci segnalato la diffusione di questa circolare. E adesso, cara Deborah, io passerei, sì, senza por tempo in mezzo, alla pillola abituale di Investire Informati, cioè il consiglio in breve del consulente per questo periodo così complicato e turbolento turbolento per il risparmio. E poi andiamo con il primo tema della giornata. La pillola di oggi, il consiglio per il risparmio di oggi, ci arriva da Isola Vicentina, ce lo ha consegnato Mara Sella, consulente finanziario di Banca Fideuram. Investire informati. Nel gestire i nostri soldi, come dice il professor Legrenzi, ci troviamo davanti a due soggetti. Da una parte c'è la nostra testa e molto più spesso la nostra pancia, e dall'altra parte c'è il nostro capitale, il nostro portafoglio. Questo momento che stiamo vivendo ci offre in realtà un'opportunità incredibile, che è quella di capire di che pasta siamo fatti, ed è una cosa molto importante nella gestione del nostro denaro. Adesso userò un'espressione forte. Quando i mercati salgono sono serena, quando scendono sono felice. Com'è possibile? In realtà, se il nostro patrimonio è stato realmente gestito sulla base di quelle che sono le nostre esigenze, i nostri obiettivi, i nostri sogni, se abbiamo fatto in passato una pianificazione corretta, questo è il banco di prova delle nostre emozioni. Come quando si va a un pranzo di matrimonio e si arriva al dolce. Alla fine ci sentiamo talmente sazi che pensare che potremmo avere ancora fame ci sembra impossibile. In questi giorni è la stessa cosa, l'indigestione che abbiamo di mille informazioni, soprattutto quelle negative, ci rende sazi e qualche volta addirittura nauseati. Eppure, come succede per il pranzo, il giorno dopo ci capita di avere ancora fame. Tutto ricomincerà, soprattutto nel momento in cui riusciremo a riprendere le nostre abitudini. Il sole ritornerà a splendere e anche l'economia riprenderà un po' alla volta. E le borse saliranno e ci accorgeremo che questa sarà stata un'occasione incredibile di acquisto. Dillo a due di denari. Questa mattina ho chiamato la mia banca riguardo l'erogazione di 25.000 euro. Mi è stato risposto che mi richiameranno quando nell'incrocio dei dati riusciranno a capire se ho richiesto il credito in due istituti diversi. Quindi lo Stato non ha preventivato che ci possono essere anche dei furbi. Ivano, Treviso. Buonasera, sono Paolo e chiamo dalla provincia di Verbania. La mia esperienza è questa. Per quanto riguarda la richiesta di finanziamento per le imprese, per la ditta di mio padre, che è da 30 anni aperta, però mi dicono velocissimamente, mi dicono che devono avere ancora istruzioni operative su come agire. Io mi chiedo il motivo e se avete voi delle delucidazioni in merito, perché sento dire che i moduli ci sono già. Ecco, vi ringrazio e buon lavoro. Abbiamo voluto mettere. Sì, Deborah, ti sentiamo forte e chiaro, scusate, in questo momento, e speriamo che così prosegua. Di pure, abbiamo voluto introdurre il tema con la viva voce degli ascoltatori, come si dice. Quindi, come introduci tu il nostro ospite? Erano dei messaggi che per la verità ci sono arrivati due giorni fa, e forse era anche abbastanza comprensibile che la prima risposta fosse: non abbiamo ancora i moduli disponibili. I moduli ci sono, da tre giorni sono pubblicati online e si possono ritrovare senza fare tanto caccia al tesoro sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico. Adesso peraltro lo riverifichiamo di nuovo, e però appunto ancora qualche resistenza da qualche banca, c'è resistenza che può essere anche comprensibile, perché effettivamente gli incari in questo periodo si è creato letteralmente il cosiddetto imbuto, il collo di bottiglia, perché stanno ricevendo richieste di ogni tipo. Vediamo se sono un po' più veloci nel mondo del cosiddetto digital lending. Allora io vorrei salutare l'ospite di questa mattina, che è Ignazio Rocco di Torre Padula, founder e amministratore delegato di Credimi, che è proprio una piattaforma che eroga finanziamenti in tempi molto rapidi, ma naturalmente sono delle piccole realtà che non possono contrapporsi in questa fase alle realtà più grandi bancarie, ma sicuramente appunto hanno un vantaggio da parte loro, che è quello di consentire delle istruttorie molto rapide e di dare delle risposte celeri alle piccole imprese, appunto, che eventualmente hanno bisogno di soddisfare una domanda di liquidità di cui in questo momento appunto hanno una grande fame. Buongiorno e grazie di essere con noi. Buongiorno Deborah, buongiorno a tutti. Allora, tra l'altro una cosa, no, scusami Mauro, solamente prego, prego. Per dire che loro ci hanno segnalato appunto che la loro piattaforma, esattamente come sta succedendo in banca in questo periodo, chiaramente facendo sempre le proporzioni dei numeri, è letteralmente esplosa in termini di richieste, e quindi volevo un po' capire, visto che noi ci definiamo un po' il pronto soccorso per le tante richieste, tanti attori in questo lo sono, e quindi Rocco di Torre Padova, insomma, cosa sta succedendo alla vostra piattaforma, che tipo di domande vi stanno arrivando, poi magari faremo anche un parallelo rispetto alla vostra, tra la vostra attività e il canale bancario. Prego. Grazie Debora, ma la nostra esperienza è stata questa. Credimi, da sempre lavora con una domanda di finanziamento che si fa in remoto. Quindi già da prima della crisi Credimi funzionava come un Credimi.com, dove qualsiasi azienda può andare, fare una domanda di finanziamento, ottenere una risposta in 3 giorni e fare tutto in remoto, a qualsiasi ora, da qualsiasi strumento, da qualsiasi device. A marzo, quando la crisi è diventata più grave, le domande che normalmente ci arrivavano si sono moltiplicate di 5 o 6 volte. Nel solo mese di marzo ci sono stati richiesti circa 320 milioni di euro di finanziamenti. Non c'è stato un problema di intoppo operativo, anche se i nostri uffici sono deserti da fine febbraio, lavoriamo tutti in remoto. Un po' di paura ce l'avevo, che facessimo magari la fine dell'INPS, e invece no, ha funzionato da un punto di vista operativo, però è successa un'altra cosa, sono finiti i soldi, a un certo punto si sono esaurite le nostre riserve di raccolta, perché non avevamo attrezzati per fare così tanti finanziamenti. E allora le abbiamo rapidamente ricostituite con una operazione speciale, che poi se vuoi posso raccontare cos'è, di cosa si tratta, però magari mi fermo qui. Ma in realtà vorrei capire una cosa che è la seguente: rispetto al prestito che uno può attivare collegandosi col sito del Ministero dello Sviluppo Economico, mise.gov.it, tanto per dare l'informazione essenziale, rivolgersi invece a questo tipo di apporti, quale può essere il vostro, che differenza c'è? Cioè uno ha maggiori possibilità di rapidità, ad esempio, cioè può essere una cosa più veloce? Allora, magari permettimi di dire una cosa anche a favore, se vuoi, tra virgolette, delle banche, ma soprattutto a beneficio di tutte le aziende. Questi finanziamenti vanno comunque richiesti a un'istituzione finanziaria. Dopo uno può andare da un'azienda fintech come noi, che siamo un intermediario, come una banca, autorizzati come un intermediario finanziario, o può andare dalla propria banca. Ma è sempre importante rivolgersi a un'istituzione finanziaria e ascoltare comunque le istruzioni che si ricevono dall'istituzione finanziaria. Difficile, non è un fai da te, non è qualcosa che si può andare in un sito del governo e prelevare, perché da noi i finanziamenti sono erogati comunque da istituzioni finanziarie. Quindi per le aziende io consiglio di rivolgersi alla propria banca, ad aziende come noi, che ovviamente ci fa molto piacere, portare un pochino di pazienza, perché dobbiamo anche tutti riconoscere che è una situazione complicata. Avremo di botto 4 milioni di aziende che tutte insieme chiederanno dei finanziamenti, tutte insieme li vorranno avere in una maniera remota, senza possibilità di andare in filiale, tutte nello stesso momento. Chiaro che ci sarà qualche piccolo intoppo, ma poi alla fine i finanziamenti arriveranno. E vorrei anche dire una cosa, non esiste solo il finanziamento garantito al 100%, ci sono varie altre garanzie, e quindi ciascuno troverà la formula adatta. Allora, la fermo un istante, le chiedo di restare in collegamento con noi. Credo di esplicitare bene il suo ammonimento dicendo: rivolgetevi a intermediari finanziari autorizzati, vigilati dalla Banca d'Italia, quindi evitiamo per favore delle avventure che poi si rivelerebbero davvero molto molto amare, specialmente in questo periodo. Debora, abbiamo il nostro appuntamento, ancorché lievemente certo, in ritardo, con l'andamento dei mercati, le borse. Viva la fatturazione elettronica! Di denari. Si va di una commedia. e c'è chi la spiega e c'è chi viveva. Si viene, si va, e quindi vengono e vanno anche gli ospiti, gli esperti qui a Due di Denari. Abbiamo trattenuto Ignazio Rocco di Torre Padula ancora per qualche minuto, grazie della sua pazienza. Stiamo parlando di finanziamenti alle imprese. Allora, in sostanza, possiamo immaginare che da settimana prossima, sia al lato vostro, ci avete detto che avete avuto una crescita enorme di richieste, sia dal lato, insomma, dei canali bancari tradizionali, ci siano queste erogazioni garantite, quelle per appunto la parte mise, di che le imprese aspettano con molta, molta ansia, comprensibilissima? Sì, noi inizieremo da lunedì a erogare finanziamenti assistiti dalla garanzia del medio credito societario, quelli assistiti da garanzia al 90%. Inizieremo regolarmente ad erogarli da lunedì mattina, quindi andando su credimi.com si può accedere a questi, si può fare domanda per questi finanziamenti. Noi non erogheremo all'inizio i finanziamenti garantiti al 100%, mentre ci concentreremo su quelli garantiti al 90%, che permettono di richiedere importi un po' più alti. Ricordo questa cosa a tutti quanti: il finanziamento garantito al 100% si può richiedere fino a 25.000 euro, ma non per importi più grandi. Noi useremo la possibilità invece di richiedere importi anche più grandi, che però sono garantiti al 90%. Avranno per il finanziato costi leggermente più alti di quelli garantiti al 100%, però permettono alle imprese anche molta più flessibilità, soprattutto alle imprese che magari hanno un fatturato non di 50 o 60 mila euro, ma magari di 200 o 300 mila euro, e quindi per le quali il finanziamento da 25 mila euro non è sufficiente. Certo, perché quello è un finanziamento appunto fino a, fatto bene a ricordarlo, perché sta fino diventando... a 25.000 euro. Esattamente. E ricordo anche un'altra cosa per tutti gli imprenditori, per tutte le piccole aziende che, a cui teniamo moltissimo, a cui bisogna dire cose semplici e chiare. Non è un finanziamento che si può richiedere sul sito del MISE, non è un finanziamento che si può richiedere, esatto, direttamente al governo, è un finanziamento che... il governo, per il quale il governo ha stabilito delle facilitazioni, ma lo ha affidato a banche e intermediari finanziari. Quindi, e infatti questa storia della compilazione del modulo, questa storia della compilazione del modulo che appare su fondi di garanzia e sul MISE è una delle parti dell'istruttoria che poi una banca naturalmente deve completare al fine di accontentare, esatto, l'imprenditore, esatto, che fa la richiesta. Questa è, esatto, il modulo della garanzia, ma poi è chiaro che l'imprenditore, il diretto interessato, deve completare un po' tutta la pratica, perché deve accontentare anche la banca se chiede qualche certificazione e qualche documento in più. Quindi non è esattamente così semplificata la procedura, ma giustamente diciamo anche noi, giusto? È impossibile condensare in un solo modulo, e in più quel modulo riguarda solo esclusivamente i finanziamenti fino a 25.000 euro, ce ne sono anche tanti altri, quindi è molto importante per, diciamo, se si vuole veramente non perdere tempo e fare qualcosa che praticamente funzioni meglio, è molto importante per l'imprenditore, per il suo, la sua persona amministrativa, per il suo consulente, chiamare la banca o l'intermediario di fiducia, o anche andare su credimi.com, andare su aziende simili a noi che funzionano completamente via internet, e capire bene quali sono tutte le possibilità, poi scegliere quella giusta e affidarsi a questi intermediari che, oltre a quel modulo, devono fare purtroppo per legge tante tante tante verifiche. Ricordiamoci anche una cosa: per tutti gli imprenditori, per tutti quelli che ricevono finanziamenti, quando qualcuno eroga un finanziamento e per sbaglio, per magari negligenza, per leggerezza, eroga questo finanziamento a un criminale o a un mafioso, quel qualcuno va in galera lui. Questo è importante che tutti lo ricordino, perché certi controlli che si fanno quando si eroga un finanziamento non è che si fanno per accanirsi contro le imprese. Ci fanno perché purtroppo il finanziamento è sempre una cosa delicata, e quindi la legge prescrive questi controlli qui. Allora, con questa raccomandazione, esortazione anche ad avere, ad fare un esercizio di pazienza, lo sappiamo, chiediamo continuamente, ci viene continuamente chiesto di fare esercizio di pazienza per le limitazioni, per i finanziamenti, per l'erogazione di 600 euro, ma i tempi sono questi e in qualche modo dobbiamo cercare di adeguarci. Ringraziamo allora Ignazio Rocco di Torre Padula, founder, fondatore di Credimi, una delle società, delle piattaforme, forme di cosiddetto digital lending, cioè prestito erogato in via digitale, è una delle possibilità per avere accesso ai finanziamenti, ai prestiti che sono stati decisi dal governo. Tra l'altro credo che questa sarà solo una prima, per così dire, delibazione, cioè un primo approccio al tema. Avremo occasione di parlarne tante tante volte. Cosa dici, Deborah? Sì, volentieri, anche perché ci sarebbe interessato capire, per esempio, se una persona magari arriva da una situazione di indebitamento pregresso un po' importante, se comunque può attivare lo stesso questo nuovo finanziamento con le garanzie statali, oppure, come ci hanno chiesto delle persone, se è il caso di insistere con la banca con la quale si ha un rapporto consolidato, oppure magari guardarsi intorno e così correre anche il rischio di far torto alla banca storica e magari appunto cercare delle alternative sul mercato, ma torneremo sicuramente su questi argomenti, visto che abbiamo la sensazione che questa emergenza non ce la scrolleremo di dosso tanto presto. E allora scriveteci se volete rappresentare il nostro caso. Tra l'altro, il Sole 24 Ore ha una casella di posta elettronica dedicata a questi temi, sosliquidita@ilsole24ore.com, proprio come ve lo dico, SOS liquidità, accentato, finale, @ilsole24ore.com. E adesso però apriamo l'altra parte della nostra puntata con l'avvocato Valerio Vallefuoco, che abbiamo nuovamente invitato a illustrarci che succede per i nostri spostamenti. Per ora credo nulla, vero avvocato Vallefuoco? Buongiorno innanzitutto. Buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Allora, sicuramente qualche piccola modifica è stata fatta proprio per permettere ad alcune attività, e quindi per permettere all'accesso di alcune attività che sono state autorizzate. Quindi di fatto il decreto 10 aprile ha fatto una timida apertura per alcune attività, e quindi facendo l'interpretazione alla logica per cui tutti gli spostamenti che erano stati autorizzati per le precedenti attività aperte lo sono anche per le nuove, c'è questa nuova possibilità. Si potrà andare nelle cartolerie, si potrà andare nei negozi per bambini e negli altri esercizi autorizzati dall'allegato 1 e l'allegato 2 di questo DPCM. Il DPCM, come l'abbiamo chiamato, cioè il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del Venerdì Santo, però sì. Bisogna poi guardare anche le ordinanze regionali, giusto avvocato Vallefuoco? Assolutamente, su questo chiaramente inizia la difficoltà di qualsiasi cittadino, perché poi le ordinanze regionali in alcune regioni sono state più restrittive, in alcune sono state più interpretative, il Veneto ha permesso certe situazioni, la Lombardia ne ha chiuse altre, la Campania altre ancora. Quindi io consiglio sempre di verificare il sito del Ministero dell'Interno, che dà appunto tutte le indicazioni sugli spostamenti autorizzati dalla legislazione nazionale, ma anche quelli, diciamo, delle regioni, perché poi possono prevedere delle ordinanze un pochino più restrittive. E su questo ha cominciato un pochino a infuriare un po' di polemica, perché c'è un problema, certo, di incertezza normativa e poi soprattutto di gerarchia, cioè di chi mi devo fidare. E poi se prevale, esattamente, ma allora prevale quello che mi dice il Ministero dell'Interno o il Governatore. Lo scopriremo però, avvocato Vallefuoco e cara Deborah, dopo il traffico. Promo 24. Eolo porta internet a banda ultralarga anche alle imprese della provincia italiana. Eolo Azienda è la soluzione di connettività progettata su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Con le offerte di Eolo Azienda hai il servizio attivo in soli 5 giorni, puoi navigare fino a 1 giga e ricevi sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Due di denari. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around. Eh sì, insomma, l'isolamento non è una bella condizione e lo stiamo sperimentando oramai da diverse settimane. Avvocato Vallefuoco, siccome si comincia a parlare della fase 2, più di uno può essere portato a pensare che alcune misure di contenimento, o se vogliamo usare l'inglese lockdown, siano venute meno. Non è così, cioè anche l'ultimo provvedimento statale, cioè questo famoso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del Venerdì Santo, non ha allargato nulla se non qualche attività economica, però sempre un malmeno un metro di distanza e tutte le precauzioni del caso, naturalmente smart working per chi può e così via. Sì, assolutamente. In relazione alle novità segnalo anche, diciamo, un allargamento abbastanza, secondo me, razionale e necessitato, proprio in vista di questa fase 2 che tutti stiamo aspettando. Per le attività è permesso, quelle sospese chiaramente, previa comunicazione al prefetto, la possibilità di accedere all'attività per fare attività di sanificazione, di procedere ai pagamenti e soprattutto di smaltire eventuali giacenze di magazzino. Questa è stata una richiesta che avevano un po' fatto tutte le categorie, perché di fatto anche, diciamo, il commercio o anche l'industria in certi casi, visto che si parla di ripartenza, evidentemente va fatta una ripartenza con i locali almeno sanificati. Tra l'altro poi il governo sta diffondendo, e ne ospiteremo anche alcune in un instant book che daremo con il Sole 24 Ore settimana prossima, una serie di domande e risposte frequenti, le cosiddette FAQ, dove sono ospitate anche tutte questi chiarimenti sulla materia del mi posso spostare sempre per motivi di necessità, ad esempio posso cambiare comune se devo andare a fare la spesa nel comune limitrofo, mi pare che in questo senso ci sia stata poi... possibile, perché è un'attività necessitata e quindi questa attività è possibile, come pure mi posso spostare se lavoro da un comune a un altro comune, in realtà sì, per cui diciamo ci sono queste deroghe, sono previste, ma proprio perché per attività necessitate. Simpatica, adesso molti fanno il problema del problema delle gomme, no? Del cambio delle gomme. Certo, perché è venuto il tempo di montare le gomme estive e non quelle invernali, giusto? Ecco. Allora, in questo senso c'era la scadenza del 15 aprile, che poi, come sappiamo, c'è un mese di tolleranza, quindi fino al 15 maggio, non c'è stata nessun tipo di proroga espressa nelle ultime normative, per cui chiaramente un pochino tutti si stanno chiedendo come, ma mi posso spostare? Allora, tecnicamente come si parla di necessità, uno dovrebbe cambiare pneumatici solo in caso di sicurezza o violazione della normativa, quindi sicurezza, pneumatici usurati, violazione della normativa, scadenza oltre il 15 aprile. Evidentemente questa è una cosa che va sottoposta alle autorità preposte, perché anche tutti i commissari giustamente dicono non ce la faremo mai a fare i cambi, ammesso che dal 3 sarà possibile spostarsi liberamente. Quindi sicuramente questa attività è un'attività che andrà limitata in questo periodo solo alle attività di urgenza e scadenza normativa. Posto che qui cerchiamo sempre tutti di interpretare, Deborah, io credo forse il cambio gomme non è proprio questa necessità, a meno che uno invece faccia un'attività per cui deve spostarsi. Allora è necessaria la sua attività, che so, lavora in una filiera autorizzata a operare e lui è autorizzato a sua volta dalle necessità lavorative a spostarsi. Deborah. Assolutamente. Volevo fare un'altra domanda all'avvocato Vallefuoco, perché questo tema è stato oggetto di una mia discussione personale con una persona che conosco, perché una mattina bellamente mi racconta che era andato dal dentista a fare l'igiene dentale, al che io sono rimasta anche abbastanza basita. Non è successo a Milano, è successo in un'altra grande, molto grande, avvocato Vallefuoco, città italiana, che è quella dove abita lei, e quindi diamo questo indizio. Sono rimasta abbastanza sbigottita, perché lui mi ha detto appunto che era andato a fare l'igiene dentale e quindi non aveva una situazione di emergenza, quindi una carie che ti leva il cervello quando il dente ti fa male. Allora, mi fa un po' di chiarezza rispetto a questi studi professionali, se devono essere aperti o meno. È chiaro che di fronte ad un'emergenza un dentista ti deve dare retta, ma quello che io ho capito è che questa persona con la quale parlavo è caduta letteralmente dalle nuvole rispetto a questa imposizione per questo tipo di studio professionale, che è estremamente a rischio, direi, per il tipo di lavoro che fa, appunto, che dovesse essere chiusa o meno. Allora, anche qui ricadiamo purtroppo nel regionalismo, nel senso che per quanto riguarda gli studi professionali, il Lazio non ha, diciamo, fatto delle ordinanze più restrittive come la Lombardia. La Lombardia, ad esempio, ha detto che gli studi professionali avrebbero dovuto essere aperti solo per questioni urgenti e scadenze. Faccio anche l'esempio della scadenza fiscale o processuale, o anche appunto un'attività urgente, una carie che fa dolore. E per quanto riguarda invece le attività professionali nelle altre regioni, compreso ad esempio il Lazio, non c'è questo limite. C'è però una raccomandazione di ovviamente utilizzare al massimo il protocollo di sicurezza, quello previsto anche da parte del Ministero del Lavoro e del Ministero della Salute, e quindi di fare il più possibile smart working. Per cui diciamo che la differenza in questo caso è di tipo regionale e non è di tipo nazionale. Avvocato Vallefuoco, in diversi sono rimasti bloccati, per dir così, nel momento in cui è arrivata la chiusura, quindi stiamo tornando indietro di più di un mese, diciamo è la prima decina di giorni di marzo. Si sono trovati magari in un'altra regione, in un altro comune, magari molto distanti dal loro domicilio, per assistere un parente, per motivi di lavoro, eccetera. Queste persone adesso continuano a chiedere: ma quando è che potremo rientrare al domicilio, se non abbiamo magari necessità lavorative impellenti, per dir così, cioè il lavoro che svolgevano non può essere svolto, o l'attività che avevano, per la quale lavoravano, ha chiuso? Allora, in questi casi in realtà ci sono state anche tante persone che sono rimaste fuori all'estero, una marea di persone con l'Erasmus, una marea di persone, tra l'altro i famosi anche frontalieri, o quelli che invece fanno occasionalmente su e giù nei paesi limitrofi all'Italia. In realtà è sempre permesso ritornare nel proprio luogo di residenza o nel proprio domicilio. Evidentemente poi a seconda delle circostanze poi non ci si può più spostare. Faccio l'esempio: quelli dall'estero, se non sono frontalieri o se non ci sono, diciamo, esenzioni particolari, quando rientrano in Italia devono stare in stato di autoisolamento per almeno 15 giorni. E poi ci possono essere motivi per di spostamento dell'autoisolamento, questo è previsto, ma chiaramente bisogna comunicarli all'ASL e bisogna poi utilizzare tutte le precauzioni necessarie per evitare il contagio. Deborah. Abbiamo avuto notizie, avvocato Vallefuoco, rispetto a queste prime giornate di riapertura, per esempio, delle librerie. Come si sono attrezzate? Ci sono state delle differenze territoriali, o comunque hanno dovuto tutte rispettare le prescrizioni, nel senso chiaramente ingresso scansionato, misure di sicurezza, dispositivi, mascherine, eccetera. E quindi, ecco, insomma, come è stata accolta, se ha qualche notizia, questa ripresa di questa tipologia di attività? Per esempio, anche qui, ripeto, questo è il problema dei problemi, c'è un po' di regionalismo, nel senso che faccio l'esempio nel Lazio, alcune attività, per esempio le librerie, è stata data il termine del 20, per cui è scansionato questo, anche per dare, la giustificazione è stata anche per dare la possibilità di attrezzarsi e quindi magari con dispositivi per i propri dipendenti e poi per dare anche un minimo di istruzione al personale. Nel caso di specie comunque sarà sempre previsto l'entrato scaglionato e ovviamente l'obbligo di mascherine e guanti e poi chiaramente il divieto d'assembramento all'entrata. Queste sono, diciamo, le misure minime che sono previste. E poi ogni regione sta diciamo poi normando rispetto alla parte nazionale la data di decorrenza. Allora, grazie Avvocato Vallefuoco, ovviamente avremo molti altri casi. Vi rimandiamo peraltro al sito del governo, www.governo.it, perché sono lì contenute, potete lì raggiungere delle domande e dei chiarimenti proprio sulla parte degli spostamenti, è una sezione che viene costantemente aggiornata. Altre informazioni naturalmente da Radio 24, dal Sole 24 Ore, dal nostro sito. Cara Deborah, io nell'augurarti un buon fine settimana, mi raccomando non andare in giro. Ti voglio annunciare anche che ti voglio tenere in salute per lunedì. Brava, perché io lunedì mi prenderei una giornata così di riposo, per dirla devi in andare questo da modo. Qualche parte con Sebastiano Barisoni? No, non vado da nessuna parte, ma starò a casa così. Ti ascolterò però religiosamente, esatto. Guarda, voglio proprio spendere questo avverbio. Io per farti un dispetto, visto che non ci sei, torno in redazione lunedì e faccio.